tutto di te mi sente l'odio trasparente che hai. Tutto niente, voglio tutto di te il diamante, matto indifferente che in te. Tutti i giri di quei tuoi orologi su di me, gli arti mi annivolano. Soli grigi, sterminati inverni, baci caldi a spilli mi anni bruciano. Tutto niente, voglio tutto di te l'oriente, dei tuoi occhi austeri e spenti. Tutto niente, voglio tutto di te brillante, lavoria pendente che hai. Rose ortiche, foglie gialle spighe, voglio abbraccio e spine, mi anni pungono. Silenzi, sadici e violenti, i tuoi insonni letti, i miei anni fuggono. Se non ho tutto o niente, voglio dolori e affanni, perché le cose belle di te sono inganni. C'è dentro me un giardino e un'altra sedia, io sono lì che aspetto un'alba nuova. Tutto niente, voglio tutto di te, la mente florida e invadente che hai. Tutto niente, voglio tutto di te, l'assente grido disperato che in te. Fiori e frutti dissetanti e amari, tuoi pianti asciutti, i miei anni muoiono. Intrappolati e oppressi, voglio dubbi e guai, miei anni gridano. Perché tra cielo e stelle non serve il filo. Tu che di me hai la luce, perché è già sera. Tu che mi hai già distrutto, su vieni e mi...